2024 di Enrico Pagliarini. Inizia un nuovo anno e allora anche da parte della redazione di 2024 gli auguri per un buon 2013, un anno che sicuramente sarà interessante anche dal punto di vista tecnologico, perché fortunatamente la tecnologia si espande anno dopo anno e sono sempre più le persone che utilizzano gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, a partire da quelli più semplici e rapidi che abbiamo in mano tutti i giorni, quindi gli smartphone, i tablet, i computer, ma come diciamo spesso la tecnologia è una cosa un po' più seria, deve entrare nel ciclo produttivo, deve entrare nella pubblica amministrazione, deve far parte sempre più della nostra vita per renderla più semplice, per renderci più produttivi e anche, se vogliamo, più competitivi rispetto agli altri paesi del mondo. Questo è uno dei temi di cui parliamo spesso a 2024. 2024 è un programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. In onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24, questa è una puntata speciale, ma normalmente andiamo in onda il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 17. E come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al podcast, quindi il servizio che vi permette di ascoltare, di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, in questa puntata c'è con noi Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale dday.it, quindi www.dday.it. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Allora, parlare del 2012 è facile, adesso mi sono segnato un po' di parole, ma cosa più difficile è parlare del 2013. No, beh, facilissimo parlarne, facilissimo. Difficile azzeccare. Però, certo. Parlarne possiamo andare avanti per ore, anzi è più lungo il discorso si può fare sul 2013, sulle prospettive. Il 2012 ormai ce lo lasciamo alle spalle con tante cose carine e qualche delusione sul fronte delle tecnologie, magari poi ne parliamo. Come si dice sui social network o su Twitter, si dice fail. Epic fail. Quando è proprio grosso. Quando l'hanno fatta grossa. Allora Gianfranco, a proposito di social network, diamo anche i nostri indirizzi Twitter, potete utilizzare anche la pagina Facebook di 2024 per parlare con noi, l'email 2024@radio24.it, ma ci piace, a me piace molto Twitter, allora @ e _ Pagliarini, e invece Gianfranco Giardina ha fatto l'inverso di me, cioè Giardina _G. Esatto, quindi potete utilizzare anche questi messaggi. Fabio Cantadori si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini e con me c'è Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it, che si occupa di tecnologia a 360 gradi e direi che nel 2013, non so se è corretto dire lancerete o comunque amplierete tutta la vostra attenzione su automobili e elettrodomestici, ho sbagliato a dire? No, non è sbagliato a dire, cioè, no, credevo che non si potesse dire, no, per quello che attiene la parte elettronica, certo. Tutta l'elettronica di bordo che ormai è sempre più rilevante e deve essere sempre più integrata con i device mobili, quindi tutto quello che viene dato normalmente in dotazione dalle case e anche i sistemi intelligenti che ormai aiutano e assistono l'autista nella guida. Questo sul lato automotive. Non a caso al prossimo Consumer Electronics Show di Las Vegas le case automobilistiche che esporranno, parliamo del Consumer Electronics Show, saranno più di 10. Quindi questo è un segno evidentemente che il mondo automobilistico ha nella parte elettronica oramai un elemento importante per indirizzare la scelta di un modello piuttosto che un altro da parte del consumatore, quindi è un ambito dove sicuramente serve maggiore informazione e dove pensiamo che magari anche i più strenui appassionati di motori magari abbiano bisogno di un minimo di alfabetizzazione, perché evidentemente vengono da BL pistoni di cui sanno tutto, ma magari di microchip. Ci sono delle automobili che già oggi montano il Tegra 3,